edizione. In breve un'altra notizia della notte: i 28 paesi della NATO hanno lanciato, proprio da Chicago, dove si trova il presidente del Consiglio Mario Monti, la prima fase operativa dello scudo antimissilistico. Lo scudo diventerà interamente operativo tra il 2015 e il 2017. Si è deciso di procedere nonostante l'ostilità della Russia. È il momento della viabilità, ci troviamo subito dopo per un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Sono le 6:19 minuti e 10 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e dunque andiamo a dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Naturalmente l'apertura è dedicata al terremoto, praticamente su tutti i quotidiani, o almeno il titolo principale della prima pagina, come era prevedibile e com'è naturale. L'Emilia sfregiata dal terremoto è il titolo del Corriere della Sera, terremoto in Emilia, paura e dolore, il titolo della Repubblica, terremoto da incubo, 7 vittime, quello della Stampa, l'Emilia trema, paura e morte, è il titolo del Messaggero, panico e morte il secolo XIX. Queste le aperture dei principali quotidiani che presentano ovviamente una serie di servizi di approfondimento e di commenti, se vogliamo, a partire da quello del Corriere della Sera firmato da Gian Antonio Stella, che si intitola Le fatalità prevedibili. Ma non pensiate in questo caso che Stella vuol dire che i terremoti si possono prevedere. Si parla dei rischi sismici che sono noti ed ignorati, dice, proprio a Ferrara, dopo il devastante terremoto del 1571, l'architetto Pirro Ligorio, successore di Michelangelo alla fabbrica di San Pietro, progettò la prima casa antisismica. E quindi si punta il dito sulle norme antisismiche, sulle case, su come queste case sono costruite e naturalmente sull'educazione, all'attenzione al terremoto, insomma, al tenere presente che l'Italia è tutta una terra sismica. Rita Querzè firma un pezzo, finale Emilia annientata come l'Aquila, e finale Emilia è il luogo di quella che rimarrà sicuramente l'immagine simbolo e che troverete praticamente su tutti i quotidiani del terremoto, ed è questa torre del 200, la torre dei modenesi, che alcuni scrivono lesionata, in realtà è letteralmente dimezzata, quella con l'orologio. Insomma, l'immagine l'avrete vista ormai praticamente dappertutto, se non sui quotidiani, sicuramente su internet e nei telegiornali di ieri. Questi titoli, mentre cercano anche già di fare i conti di quelli che possono essere i danni al patrimonio artistico e culturale, la radiografia di un disastro culturale, il titolo del pezzo di Paolo Conti, sempre sul Corriere della Sera. Il titolo dedicato a Brindisi, sempre sul Corsera, è Ha guardato le ragazze, ha premuto il pulsante, il filmato dell'attentato di Brindisi si indaga nella scuola. E poi la questione delle urne, fuga dalle urne, 11% in meno rispetto al primo turno. Si parlava poi della NATO e dello scudo antimissile, bene, anche di questo si parla. Massimo Gaggi ci informa che la NATO schiererà i droni antiterrorismo a Sigonella, questo nell'ambito del progetto appunto sullo scudo antimissile. La Repubblica, come si diceva, terremoto in Emilia, la paura e il dolore, si parlava dei danni per il patrimonio artistico e culturale, una ferita per la nostra storia, il titolo del commento a firma di Salvatore Settis. E Carlo Lucarelli invece, un pezzo naturalmente più di scrittura, Se si ribella la terra gentile. A centropagina il titolo su Brindisi presenta una questione interessante. Perché? perché c'è il DNA del killer di Brindisi, dice la Repubblica. Brindisi, il DNA inchioda il killer, un video mostra l'esplosione, nell'immagine un cinquantenne vede le studentesse e preme il telecomando. Interessante a proposito di insomma tutti i discorsi che sono fatti sulla mafia, sulla criminalità organizzata, insomma. Parla un ex boss della Sacra Corona Unita, che come sapete è la criminalità organizzata pugliese, di origine pugliese. L'ex boss della Sacra Corona Unita sconfessa la strage: i ragazzini non si toccano, i colpevoli non siamo noi. Attilio Bolzoni, un pezzo a firma di Attilio Bolzoni. Altre due questioni interessanti dalla prima della Repubblica. Nella fabbrica dei bambini dove le coppie cercano la felicità, e si parla di fecondazione eterologa, perché domani la Corte Costituzionale decide appunto sulla fecondazione eterologa. E c'è anche un servizio su il fondatore di Facebook, Zuckerberg, dal debutto in borsa all'altare, la settimana d'oro di Zuckerberg. La Stampa, titolo forte ovviamente sul terremoto, ma il titolo che trovate in alto invece è dedicato alla vicenda di Brindisi e con l'uomo che ha innescato la bomba della scuola. Il PM che dice forse uno in guerra col mondo, tra poco andremo a sentire l'intervista. C'è la caccia al presunto attentatore ripreso dalle telecamere. Oltre a tutti i servizi che potrete immaginare in merito al terremoto, tra cui uno di Mario Tozzi che scrive: l'Italia del mattone va ripensata. C'è un pezzo dedicato alla vicenda di JP Morgan. Come sapete, JP Morgan ha perso in una serie di operazioni di trading piuttosto complesse 2 miliardi di dollari circa, forse di più. Ebbene, Francesco Guerrera scrive un commento a Wall Street: non si impara dagli errori. Ovviamente dedicato un buongiorno particolare, quello di Massimo Gramellini oggi, per chi non lo sapesse è un torinista e celebra il ritorno del Torino in Serie A. Il Messaggero, come si diceva, l'Emilia Trema, paura e morte, il titolo, un commento a firma di Enzo Boschi, che era dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, il rischio e gli occhi chiusi, quindi il tema si concentra, come vedete, su quello. Poi, naturalmente, titolo sulle immagini del killer che così ha azionato la bomba, il Napoli batte la Juventus 2-0 e vince la Coppa Italia. Il titolo di Sport, o meglio è l'occhiello tecnicamente di Sport, mentre il titolo è Olimpico fischi all'inno. Questo è il titolo che sceglie il Messaggero. Infine veniamo al Sole 24 Ore. Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, è un numero freddo ma con parecchie cose interessanti. Innanzitutto la guida che c'è oggi in regalo: come risparmiare con l'auto, ci sono i consigli utili, acquisto, polizza, controlli e rifornimenti, una strategia per tagliare costi e consumi. Rate e bollette famiglie alle corde, il titolo di apertura. I debiti in sospeso sono 38 miliardi, il valore di bollette e rate non pagate nel 2011. Cresciuto l'aumento dei crediti da recuperare: dal 2007 ad oggi è cresciuto del 148%. Questo il quadro che ci consegna il Sole 24 Ore, presenta ancora dettagli su come pagare l'IMU. Come sapete è complesso anche quello, cioè oltre al fatto di pagarla è anche piuttosto complessa, dai codici ai calcoli, così l'acconto IMU con il modello F24. Ci informa anche il Sole 24 Ore che ci sono rincari in vista anche per la tassa sui rifiuti. Chiudiamo così questa breve occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Ci prendiamo una breve pausa, ci ritroviamo tra un attimo con le notizie in breve di GR24. Prima edizione. Sono le 6:36 minuti e 12 secondi. Italia in controluce. Italia in controluce. È il 21 di maggio e vi parla Daniele Biacchessi.

ha lasciato la città e in volo, e adesso dovrebbe raggiungere l'Italia in un'ora compresa a seconda dei venti tra le 14 e le 15 in tempo per partecipare molto probabilmente ai funerali della giovane Melissa, la vittima dell'attentato di Brindisi. Lo ha lasciato a rappresentare qui l'Italia il ministro degli esteri Giulio Terzi e il ministro della difesa Giampaolo Di Paola. Questo naturalmente dico perché adesso c'è il vertice NATO. Lui aveva detto se ne sarebbe andato, insomma, prima della conclusione del vertice della NATO. Esatto. Mentre invece dal lato economico, Gerardo, mi sembra che sia un'evoluzione importante questo approdo della Spagna al vertice che si farà a Roma con Angela Merkel e François Hollande, che precederà il Consiglio europeo. Assolutamente sì, è una novità che l'economia, i temi della crisi globale hanno oscurato in parte anche i temi politici e della sicurezza dell'Afghanistan e del vertice NATO, e quindi per la prima volta in un vertice della NATO si parla di economia. Lo hanno fatto in maniera molto informale il Presidente del Consiglio Monti e il Premier spagnolo Rajoy all'atere della foto di famiglia al McCorney Center dove si svolge il vertice. Rajoy sarà presente al vertice di metà giugno, cioè tra il Consiglio europeo del 23, che dovrà una cena, dovrà in realtà fare soltanto un primo giro d'orizzonte sui temi della crisi greca e del piano rilancio dell'Europa, e quindi project bond per arrivare agli euro bond, cioè una mutualizzazione di una parte del debito UE, come ha chiesto il presidente francese Hollande al G8, l'aumento del capitale di 10 miliardi della BEI e tutti gli aspetti che riguardano anche possibilmente la Gordon Lue, cioè la depurazione dai deficit di quella parte degli investimenti buoni, almeno per la parte che riguarda le reti transfrontaliere. Benissimo. Questo è il vertice del 23, poi ci sarà il vertice a Roma tra Monti e il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Merkel, alla quale si aggiunge Rajoy, e poi il 28-29 giugno il vertice, un altro vertice, il Consiglio europeo già previsto, che dovrà finalizzare un poco tutto l'esercizio. È molto importante questa partecipazione di Rajoy, che in realtà mette una parola fine al direttorio. In realtà era stato a Strasburgo che Monti e la Merkel e Sarkozy allora avevano cercato di correre in soccorso all'Europa e di creare una sorta di vagone avanzato, di plotone di testa dei 27. Adesso a questo plotone partecipa anche la Spagna, un paese in crisi, e quindi per favorire un metodo inclusivo, un metodo più che intergovernativo, molto comunitario. Vedremo che cosa succederà. Grazie intanto a Gerardo Pelosi, inviato negli Stati Uniti del Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Prima edizione. Sono le 6:45 minuti e 49 secondi, dunque andiamo a Ferrara da Irene Privitera per un aggiornamento della notte. Mi sembra di capire, Irene, ci siano state altre scosse. Simone, buongiorno. Intanto la città di Ferrara comincia a svegliarsi dopo una notte che per molti è stata insonne. La terra, infatti, come hai appena detto, ha continuato a tremare. Diverse scosse sono state registrate dai sismologi, sono state avvertite dalla popolazione, tutte intorno ai 3,5 gradi. La pioggia incessante, ricordo ancora il video della fortissima scossa della notte precedente, hanno portato... Allora, Irene, ti fermo perché abbiamo un problema tecnico per cui ti sentiamo malissimo, però insomma mi sembra che un quadro generale della cronaca ce l'hai dato, poi ti risentiremo tra poco anche nei nostri giornali radio. Intanto nella notte hai raccolto alcune voci, possiamo sentirle. Siamo stati qui in piazza perché avevamo un po' paura a stare dentro. L'idea... Quindi tutto il giorno che siete fuori, in pratica? Sì. Dal primo terremoto che c'era alle 3 più o meno, siamo usciti e tutto il giorno di qua per la strada. Siamo all'interno del bar La Corte, il pieno centro storico di Ferrara, e diciamo che gli avventori sono un po' pochini stasera. Assolutamente sì, perché comunque con quello che c'è stato, insomma, c'è stato un po' di allarmismo ed effettivamente da oggi pomeriggio che di gente se ne vede poca in giro, a parte questa mattina che comunque erano tutti fuori. Molta paura. Cioè, noi tutti i nostri clienti oggi che sono venuti, tutti passati una paura, è stata veramente una cosa grossa. La terra ha fatto rumore, è stata una cosa impressionante. E dunque adesso ci occupiamo di cambiamo argomento e andiamo appunto a Brindisi. Iniziamo sentendo innanzitutto le parole del procuratore della Repubblica di Brindisi, Marco Di Napoli, che ha parlato, intervistato da Vincenzo Miglietta, gesto isolato a suo avviso, ma con una volontà stragista. Procuratore, facciamo il punto sulle indagini. Noi abbiamo contestato un reato di strage, articolo 422 del codice penale, un reato punito con l'ergastolo perché è morta una persona, ma il reato è contestato nei confronti di persone da identificare, quindi non abbiamo ancora identificato una persona iscritta nel registro degli indagati. Abbiamo fatto un significativo passo in avanti perché abbiamo raccolto delle immagini che io ritengo molto significative. Però siamo ancora lontani dal risultato finale e quindi le indagini proseguono a 360 gradi senza escludere nessuna ipotesi. La pista mafiosa decade? Non è completamente esclusa la pista mafiosa, ma ci sembra altamente improbabile. Io ho parlato di uno spiraglio, si è aperto uno spiraglio significativo che ha gettato un po' di luce che ci consente di fare degli approfondimenti mirati. È quello che stiamo facendo. C'è stata una grande mobilitazione e quindi parecchie persone ci hanno riferito informazioni o notizie di cui avevano conoscenza. Però in questo caso occorre molta cautela perché nell'ansia di mettersi a disposizione della giustizia non tutti ci danno delle informazioni che sono utili, però non trascuriamo nessun elemento che ci viene conosciuto. E però ci sono dubbi. Il procuratore di Lecce Cataldo Motta dice che si continua ad indagare a tutto campo e non si è certi che si tratti di un gesto isolato. Ma questo, come ho detto, è tra le varie possibilità. Io non propendo per quello, ma stiamo lavorando su tutte le possibilità, su tutte le ipotesi, perché non abbiamo indicazioni specifiche. Non è escluso nulla assolutamente e non escludo nessuna possibilità. Sulle indagini non dico assolutamente nulla. Grazie a Diego Rovelli in redazione, a Peter Bescapè in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia ci risentiamo tra poco con il giornale radio.